Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ci è stato chiesto di fare le primarie, il congresso, il referendum tra gli iscritti, va bene tutto. Qualsiasi sia lo strumento per fare del nostro partito davvero un partito democratico. Però è importante che poi comunque vadano le primarie o il congresso, chi perde il giorno dopo rispetti chi ha vinto, perché altrimenti è l'anarchia. È tornato a parlare Matteo Renzi, lo avete sentito, al TG1 ha detto bene, se all'interno del PD, sapete tutte queste tensioni all'interno del Partito Democratico, dice se vogliono il congresso, se vogliono le primarie, si facciano, però poi quando uno vince lo si rispetti. C'è sempre fibrillazione nel dibattito politico, tra l'altro adesso si allungano un po' i tempi per l'esame della legge elettorale dopo la decisione della Consulta, e sempre in ambito politico, ma che sfocia nel giudiziario, si fa un po' più difficile, la situazione della giunta romana, perché oggi è stato il primo interrogatorio della sindaca Virginia Raggi, che sapete è indagata per abuso d'ufficio e falso, e tra i vari elementi emersi, questo secondo l'Espresso, secondo il Fatto Quotidiano, ci sarebbero dei rapporti particolari che avrebbe avuto la sindaca Virginia Raggi di natura economica con il suo ex capo della segreteria Salvatore Romeo, perché sembrerebbe che Romeo abbia stipulato una polizza vita da 30.000 euro con lei beneficiaria. Poi approfondiremo questo tema e cercheremo di capire un po' più nel dettaglio. Lo sapete che prima del riassunto della giornata vi ricordo sempre che potete interagire qui con Effetto Notte sulla pagina Facebook del programma, pagina Facebook Effetto Notte, oppure c'è un numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Quindi anche stasera tanti i temi da approfondire. Prima di tutto però vi racconto come sempre in sintesi la giornata. Conti pubblici, il ministro Padoan respinge l'idea di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea e nella lettera a Bruxelles spiega che il deficit scenderà al 2,1% nel 2017, le misure entro aprile. Primo interrogatorio per Virginia Raggi, emergono nuove rivelazioni nei rapporti con l'ex capo della segreteria Romeo, il quale avrebbe stipulato una polizza a favore della sindaca. Migranti, incontro a Roma tra Gentiloni e il primo ministro libico per firmare un memorandum tra Italia e Libia sui flussi migratori. Domani vertice europeo a Malta, l'annuncio del presidente del Consiglio europeo Tusk, chiuderemo la rotta libica. Legge elettorale, ci vorranno tempi più lunghi, l'esame si farà dopo le motivazioni della Consulta, e Renzi sulle tensioni nel PD dice vanno bene le primarie e il congresso, ma chi perde rispetti il risultato. Terremoto, il governo vara il decreto con nuove risorse, diverse centinaia di milioni, non aspetteremo il via libera dell'Unione Europea. Stati Uniti, telefonate tese di Trump con i leader di Messico e Australia, solo immigrati che ci amano, dice basta divieti per le chiese. Alta al piano per sparare lupi, le regioni ottengono un rinvio, verrà riesaminato il 23 febbraio, esultano intanto gli ambientalisti. Partiamo quindi dai conti pubblici italiani, dal negoziato dell'Italia con Bruxelles. Nel giorno del via libera al terzo decreto sul sisma, dal ministro Padoan sono arrivate rassicurazioni. Ieri l'invio della lettera a Bruxelles, oggi i dettagli sui contenuti illustrati dal ministro dell'economia Padoan al Senato. L'intervento sui conti pubblici che il governo si appresta a varare su indicazione della Commissione europea, spiega allora il titolare del tesoro, è pari allo 0,2% con il rapporto deficit-PIL che scenderà al 2,1% del PIL. Non si tratterà di una manovra estemporanea, ma di misure bilanciate anche di sostegno, dice Padoan, che poi aggiunge l'aggiustamento è indispensabile, la sola ipotesi di una procedura di infrazione è allarmante. Questa procedura comporterebbe una riduzione di sovranità sulle scelte di politica economica e soprattutto comporterebbe costi ben superiori alla finanza pubblica del Paese e quindi sottrazione di risorse per il pubblico, per la crescita e per l'occupazione. No ad interventi sull'IVA e sulle agevolazioni fiscali, dice quindi il ministro dell'Economia, che boccia ulteriori round di rientro di capitali. Più in generale, l'aggiustamento che arriverà entro aprile, spiega Padoan, si compone per circa un quarto da tagli di spesa selettivi, per circa tre quarti da misure sulle entrate. 1 miliardo sarà stanziato per terremoto e maltempo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E attinente a questo c'è l'emergenza legata al terremoto. Si tratta di una situazione straordinaria. Arriva di oggi il presidente del Consiglio Gentiloni al termine del Consiglio dei Ministri. Ha detto anche non possiamo aspettare Bruxelles. Semplificare la burocrazia, accelerare le procedure per rimuovere le macerie o costruire alloggi temporanei, stalle e nuove scuole. Sono alcuni degli interventi contenuti nel decreto terremoto varato oggi dal Consiglio dei Ministri per sbloccare la ricostruzione dei paesi rasi al suolo dal sisma. Un provvedimento che prevede anche esenzioni fiscali e sostegno economico a fasce deboli e aziende. Interventi, stima il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, da diverse centinaia di milioni, inclusi 35 destinati agli allevatori entro febbraio. Tutte risorse sulle quali il Governo non aspetterà il via libera della Commissione europea. Abbiamo risorse nella legge di bilancio, ne stiamo mettendo in campo ulteriori con questo decreto. Intanto però non è che possiamo aspettare chissà quali superiori determinazioni. Noi decidiamo, ci prendiamo le nostre responsabilità, cerchiamo di rispondere nel modo migliore possibile alla situazione che si è creata. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi Gentiloni ha detto che è stata una giornata importante per i rapporti tra Libia e Italia dopo la firma di un memorandum che ha al centro i flussi migratori e il controllo dell'immigrazione clandestina. Innanzitutto, ha detto Gentiloni, perché ci conferma un'amicizia, una collaborazione che già si è manifestata in questi mesi attraverso l'impegno del governo italiano in diversi fronti. E sempre sul tema dell'immigrazione, domani ci sarà a Malta un vertice europeo di cui poi parleremo nel corso di Effetto Notte. Passiamo adesso al primo interrogatorio per Virginia Raggi. Oggi emergono nuove rivelazioni nei rapporti con l'ex capo della segreteria Romeo. Una struttura protetta, lontana da telecamere e giornalisti, è questo il luogo scelto dalla procura per l'interrogatorio di Virginia Raggi. A condurlo il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Francesco Dall'Olio. La sindaca di Roma è indagata per falso e abuso d'ufficio per la nomina a capo del Dipartimento per il Turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele Marra, l'ex capo del personale del Campidoglio arrestato a dicembre per corruzione. Per ora nulla trapela sul contenuto dell'atteso faccia a faccia, ma altre rivelazioni nel frattempo rischiano di complicare la posizione della prima cittadina. Secondo l'Espresso, infatti, nel gennaio del 2016 uno dei suoi fedelissimi, Salvatore Romeo, l'avrebbe indicata come beneficiaria di una polizza vita da 30.000 euro, una strana operazione finanziaria su cui stanno indagando gli inquirenti, che potrebbero aver chiesto chiarimenti alla prima cittadina anche nell'interrogatorio di oggi. Qualche mese più tardi Raggi venne eletta sindaco e promosse Romeo, che fino allora era un semplice funzionario comunale in aspettativa, a capo della sua segreteria, triplicandogli lo stipendio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi sugli elementi emersi da questo primo interrogatorio torneremo tra poco con chi sta seguendo le indagini, con il cronista che segue le indagini. E restando a Roma c'è una notizia che riguarda lo stadio. Il Campidoglio, per arrivare ad un parere favorevole sul progetto di realizzazione dello stadio della Roma, chiede di assicurare adeguati livelli di sicurezza stradale, veicolare e pedonale, adeguati livelli di servizio delle infrastrutture stradali, di completare la documentazione progettuale e colmare le carenze di contenuti. Va poi ridefinito, dice questa nota del Campidoglio, il perimetro delle zone già soggette a rischio per eventi idraulici. E da Roma passiamo alla politica nazionale. Per la legge elettorale sono necessari tempi più lunghi. Rallenta l'iter della legge elettorale, la spinta inflitta dai partiti si scontra con quanto deciso dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, che inizierà l'esame delle proposte di legge dopo la pubblicazione della sentenza della Consulta sull'Italicum. Il PD chiede di incardinare la proposta anche per il Mattarellum, attacca il Movimento 5 Stelle. Il PD fa melina, mentre secondo Forza Italia ha vinto il buonsenso. Ma anche i grillini chiedono una modifica all'Italicum uscito dalla Consulta. Contestano i capilista bloccati. Intanto si comincia a configurare la cosa rossa. A sinistra si incontrano Massimo D'Alema, Nichi Vendola, Nicola Fratoianni. La minoranza Dem continua a chiedere il congresso. L'ex segretario Pierluigi Bersani vuole una discussione su linea e leadership. Poi, sul possibile nuovo soggetto politico, spiega che non sarà un revival del passato, ma un Ulivo 4.0 per mettere insieme la pluralità del centro-sinistra. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per quanto riguarda le tensioni interne al PD, Matteo Renzi ha detto così al TG1. Ci è stato chiesto di fare le primarie, il congresso, il referendum tra gli iscritti, va bene tutto. Qualsiasi sia lo strumento per fare del nostro partito davvero un partito democratico. Però è importante che poi comunque vadano le primarie o il congresso, chi perde il giorno dopo rispetti chi ha vinto, perché altrimenti è l'anarchia. E siamo adesso ai dati sui consumi in Italia, ancora una frenata secondo Confcommercio nel 2017. La fiducia che diminuisce, i consumi che arrancano, il 2017 si annuncia purtroppo come un anno denso di incognite e di rischi. A prevedere queste ombre scure sull'anno in corso è Confcommercio nel suo rapporto annuale. Nel 2016 i consumi erano arrivati all'1,3-1,4%, mentre nel 2017 si stima un più modesto 0,6% con il PIL che non raggiungerà l'1%. Un forte rallentamento dovuto, secondo Confcommercio, alla riduzione della fiducia di famiglie e imprese per via dell'aumento della disoccupazione e della ridotta crescita del reddito. Si punta il dito poi sulla politica fiscale del governo, che non ha funzionato: troppi bonus, troppi interventi spot. Di qui la richiesta di Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli: un percorso di riduzione generalizzata delle aliquote IRPEF, anche perché finché si mantiene questo livello di pressione fiscale è una illusione attendersi PIL e consumi in linea con gli altri paesi europei. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ci spostiamo all'estero con Trump, che fa varie telefonate piuttosto tese, una con il leader del Messico, con il primo ministro del Messico, l'altro con il primo ministro dell'Australia. Minaccia Peña Nieto, appunto primo ministro messicano, il presidente messicano, dice: sono pronto a inviare delle truppe. Poi la Casa Bianca la definisce una battuta e ha accusato Trump, poi il premier australiano, di voler esportare i terroristi negli Stati Uniti. Poi Trump ha commentato: quando sentite delle mie telefonate dure con gli alleati, non preoccupatevi, certe cose non devono più accadere. E il presidente poi ha promesso di distruggere completamente il Johnson Amendment, che vieta alle chiese di fare attività politica. E adesso invece in Gran Bretagna, dove è stato confermato il percorso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, oggi è stato presentato l'atteso Libro Bianco. Il libro bianco dell'addio all'Europa consta di 12 punti spiegati in 77 pagine, compresa la prefazione della Premier May, che invita tutti a superare le ostilità. Alla Camera dei Comuni lo ha presentato il ministro per la Brexit, David Davis, confermando che sì, la Gran Bretagna lascerà il mercato unico, ma cercherà di stringere con l'UE un accordo di libero scambio coraggioso e ambizioso e una nuova partnership costruttiva. Quanto ai cittadini europei nel paese, nessuno li butterà fuori, ha detto Davis, ma servono rassicurazioni corrispondenti per i britannici sul continente. Affermazioni che non hanno convinto i Labour e che arrivano troppo tardi sulla chiusura delle iscrizioni alle prestigiose scuole del Regno. Nelle università quest'anno le richieste dall'estero sono calate del 7% e precipitano del 23% le iscrizioni nelle scuole universitarie infermieristiche, frequentatissime dagli stranieri per la cronica carenza di personale paramedico nazionale. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E per chiudere la musica con Ligabue, che è rimasto senza voce, rinviato all'avvio del tour previsto per domani. Intanto Ed Sheeran arriva in Italia, folle per la caccia al biglietto e ancora dubbi di bagarinaggio online. Sheeran il 17 marzo a Torino, uno dei live più attesi dell'anno, e i biglietti sono stati polverizzati sul sito di Ticket One dopo 15 minuti dall'apertura della prevendita. Certo, poche ore dopo Ticket One ha annunciato un secondo concerto il 16 marzo, sempre al Palalpi Tour del capoluogo piemontese, ma nel frattempo su Twitter hashtag Divide Tour schizzava al primo posto tra i trend, tra delusione e dubbi su un ennesimo caso di bagarinaggio online. In effetti, dopo pochi istanti, i biglietti sono apparsi anche su siti come Viagogo e Seatwave a 200, 300 fino a 600 euro l'uno. Non moltissimi, ma certo c'erano. La SIAE annuncia che sta svolgendo un approfondimento e darà mandato ai suoi legali anche su questa vicenda di presentare una specifica denuncia se rileveranno comportamenti sospetti. Il tutto proprio nel giorno dell'audizione sul secondary ticketing alla Commissione Cultura della Camera. Presenti anche i rappresentanti del mercato secondario. StubHub si difende: diamo la possibilità ai fan di vendere biglietti che non possono usare perché non possono essere rimborsati, e chiede di essere consultata nella messa a punto della regolamentazione. Marta Cagnola, Radio 24, il Sole 24 Ore. Per chiudere, delle notizie, diciamo così, animalesche. Alta il piano per sparare ai lupi. La conferenza dello Stato-Regioni ha deciso il rinvio del piano lupo, così come ha chiesto, come è stato chiesto dai presidenti delle regioni italiane. Il piano dovrebbe tornare all'esame della conferenza il prossimo 23 febbraio. Il ministro dell'Ambiente difende il provvedimento, dice non c'è nessuna riapertura della caccia al lupo, ma 22 misure di grande valore scientifico che salvano la specie. Poi c'è questa storia incredibile di un delfino che da un mese nuota nel fiume Arno in Toscana, e precisamente pare che adesso, dal 31 dicembre che lo si vede del 2016, pare che adesso stia stazionando proprio vicino Pisa, vicino alla ne dà notizia l'ARPAT, praticamente a 9 chilometri dalla foce dell'Arno. E poi la notizia che arriva dagli Stati Uniti, questo è un rito di sempre, annuale, sapete che in Pennsylvania praticamente cercano di capire da una marmotta che tempo farà, se l'inverno sta finendo o se prosegue, e qual è stato il risultato quest'anno, se la talpa, se questa, scusate, questa marmotta esce dalla sua tana e non vede la sua ombra perché il tempo è nuvoloso, l'inverno finirà presto. Se invece vede la sua ombra perché è una bella giornata, si spaventa e torna di corsa nella sua tana, e l'inverno continuerà così per altre 6 settimane. Questa è la notizia, l'inverno va avanti ancora, quindi 6 settimane, diciamo ancora un mese e qualcosa, purtroppo, per chi non ama l'inverno. Mi fermerei qui per dare spazio invece agli aggiornamenti per chi viaggia, per i vostri messaggi, le vostre interazioni con Effetto Nota. Intanto lo sapete, c'è la pagina Facebook del programma, oppure il 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E siamo subito insieme. Qualcuno dice il famoso film Il giorno della marmotta, dice qualcuno a proposito di Phil, la marmotta statunitense che viene consultata ogni anno per capire quanto durerà l'inverno. Tra poco ci consulteremo con un cronista che sta seguendo invece l'inchiesta che riguarda la sindaca di Roma Virginia Raggi. Ancora però i vostri messaggi, c'è spazio per la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire sempre senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è il 349-238-6666. Per esempio questo ascoltatore scrive, a proposito invece di Renzi, di quello che ha detto questa sera al TG1 che abbiamo fatto sentire, che dice va bene il congresso, lo farò se vuole la minoranza PD, faremo anche le primarie, però l'importante è che poi una volta che si fanno si rispetti chi vince. Dice questo ascoltatore, Pino da Bologna, rispettare chi vince e chi vince rispetti il programma. Poi Franco scrive, gentile signora Roberta, non mi chiamate signora, mi viene l'uveite, dice ma che fine facciamo in tutto questo caos? Ci sono varie vicende che riguardano la politica effettivamente un po' caotiche in questo momento. E poi invece Giacomo da Bergamo scrive, scandalo, la Raggi è una polizza vita, siete ridicoli, forza Trump. Non so perché mette insieme Trump e la sindaca Raggi. In ogni caso capiremo tra poco che la cosa che emergerebbe strana per il momento, secondo le indiscrezioni, è che a fare questa polizza a suo beneficio sia stato quello che era un dipendente del Comune di Roma, Romeo, che poi quando Virginia Raggi è diventata sindaca, lei ha promosso e a capo della segreteria, insomma, suo segretario, il braccio destro. Quindi, insomma, di solito si fa la polizza per i propri familiari, per i figli, per la moglie, il marito. Strana questa cosa che invece un dipendente del Comune di Roma faccia una polizza a favore della sindaca. Ecco questo, però cercheremo di capire qualcosa tra poco con il nostro Ivan Cimarusti. Invece adesso vi ricordo, se non avete acceso puntualmente le 21, quali sono le notizie più importanti. La sindaca Raggi interrogata dai PM, scoppia il caso della polizza da Romeo fatta per la sindaca, poi nominato capo della segreteria. Moscovici, il commissario Moscovici dice l'Italia riduca il deficit, è arrivata ieri, sapete, la lettera di risposta dell'Italia. Il ministro Padoan dice evitiamo le procedure di infrazione perché sarebbero troppo, ci costerebbero troppo, l'ipotesi sarebbe allarmante e ridurrebbe la nostra sovranità, e dice che comunque misure per ridurre il deficit ci saranno entro aprile. La legge elettorale in commissione sarà solo dopo le motivazioni depositate dalla Consulta, quindi si allungano un po' i tempi. Bersani intanto pensa a un Ulivo 4.0, come si dice. Renzi invece afferma la scissione è incomprensibile, poi lo avete sentito che dice va bene le primarie e il congresso. Tusk, il presidente del Consiglio europeo, dice ormai l'accordo tra Libia e Italia è vicino. Oggi in effetti è stato firmato un accordo tra Italia e Libia sul flusso dei migranti e domani ci sarà questo vertice europeo informale sull'immigrazione di cui parleremo più tardi. Terremoto, il governo vara il decreto con nuove risorse, diverse centinaia di milioni, dice il governo, non aspetteremo per questo il via libera dell'Unione Europea. E poi Trump che fa telefonate a destra manca col presidente del Messico e con il primo ministro australiano dicendo noi vogliamo solo immigrati che ci amano e basta divieti per le chiese. E poi alta il piano per sparare i lupi, le regioni ottengono un rinvio, verrà riesaminato questo piano il 23 febbraio. Oggi quindi dicevamo c'è stato questo primo interrogatorio della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che sapete è indagata per falso e abuso d'ufficio per la promozione del fratello del suo ex braccio destro, Raffaele Marra. L'interrogatorio si è svolto e non ho ancora notizia che sia finito per il momento, è durato diverse ore, si è svolto in una località segreta, però sono trapelate alcuni elementi, alcune indiscrezioni, come vogliamo chiamarle, che hanno pubblicato, di cui hanno riportato notizia Il Fatto Quotidiano e l'Espresso. Si parla di una polizza vita da 30.000 euro fatta dall'ex capo della segreteria di Virginia Raggi, Salvatore Romeo, che poi sapete si è dimesso, a favore dell'allora candidata grillina, perché allora non era ancora sindaca, ha fatto questa polizza quando lei era ancora candidata. Qualche mese dopo la Raggi ha promosso il funzionario a capo della sua segreteria triplicandogli lo stipendio. La procura indaga anche su altre polizze a favore di altri dirigenti grillini, ma ci spiega meglio il tutto Ivan Cimarrusti. Buonasera. Ciao Ivan, buonasera, che stai buonasera. Seguendo. Quindi per buonasera. Ora sono queste le notizie che trapelano. Beh sì, l'interrogatorio non è ancora terminato. Ah. Virginia Raggi dura ancora da ore, no? Parecchie ore. Esattamente, a quanto ci risulta è cominciato subito dopo pranzo, quindi diciamo intorno alle 14:30-15. Virginia Raggi appunto è accusata di abuso d'ufficio, è falso, come giustamente facevi notare, in merito alla nomina di Renato Marra al comparto turismo del Campidoglio. Renato Marra è il fratello di Raffaele Marra, sì, il super burocrate arrestato a dicembre scorso per aver intascato una presunta tangente da 367.000 euro. Solo che durante l'interrogatorio i magistrati hanno posto domande, però non hanno contestato alcun tipo di reato, hanno posto domande in riferimento a una polizza sottoscritta da Salvatore Romeo, che è l'ex capo segreteria della Raggi, a gennaio scorso. La polizza è da 30.000 euro e stranamente risulta come beneficiaria Virginia Raggi. Come dicevo, la procura non muove alcun tipo di contestazione, quindi ha posto soltanto delle domande che però allo stato non è chiaro, non si conoscono ancora le risposte, anche perché insomma l'interrogatorio è in corso. Però sono le date a far sorgere degli interrogativi, perché a gennaio viene sottoscritta questa polizza, a febbraio ci sono le note comunarie, quelle sarebbero le primarie del Movimento 5 Stelle fatte online, esattamente, sì, che scelsero la Raggi candidata poi alle successive elezioni a scapito di Marcello De Vito, che sarebbe l'attuale presidente dell'Assemblea Capitolina, che però si pare essere stato oggetto di dossieraggio nel corso di quelle comunarie. A giugno, anzi luglio, scusatemi, subito dopo l'elezione della Raggi, Romeo viene nominato capo segreteria. Il particolare è strano, insomma, perché Romeo era già dipendente del Comune di Roma e percepiva uno stipendio di 39.000 euro annui lordi, si occupava delle partecipate, coordinava il comparto partecipate, società partecipate del Comune. E poi attraverso l'applicazione, secondo la procura, irregolare del testo unico degli enti locali, era stato triplicato il contratto a 93.000 euro. Ora, la procura sta cercando di chiarire appunto il motivo di questa polizza e cercare di capire anche se ci possa essere una connessione con questo successivo aumento di stipendio, fatto che potrebbe ovviamente concretizzare ipotesi di reato ben più gravi rispetto all'abuso d'ufficio al falso che già sono contestate alla Raggi. Perché Ivan, ricordiamolo, Romeo era un dipendente, no? Già del Comune di Roma, che aveva uno stipendio di 39.000 euro lordi l'anno, poi si è prima messo in aspettativa, poi è stato riassunto, esatto, da Virginia Raggi a 110.000 euro l'anno, poi scesi a 93.000 perché c'era stato l'intervento di Cantone e dell'anticorruzione che aveva detto no, beh, cerchiamo di mettere un tetto. Esattamente, ma aggiungiamo anche che questo nuovo contratto fatto a Salvatore Romeo era stato oggetto di contestazione prima che di ANAC anche dell'avvocatura comunale, la quale aveva sollevato profonde perplessità in merito all'applicazione del TUEL e quindi questo nuovo contratto per Romeo, che già riteneva irregolare. La procura ha aperto un'inchiesta su questo fronte, però lo Stato non ha ancora formalizzato iscrizione nel registro degli indagati. Quindi per il momento il fascicolo è senza indagati, senza ipotesi di reato. Però potrebbe questa polizza, questa vicenda relativa alla polizza potrebbe dare nuovi spunti di indagine ai magistrati. Ivan, intanto leggo velocemente alcuni dei tanti messaggi che stanno arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Gilles scrive: sono curioso di vedere le prossime arrampicate sugli specchi di Grillo. Mentre questo ascoltatore Francesco dice: certo che se Renzi ha tolto di mezzo Marino apposta per far scendere al Campidoglio la Raggi e disintegrare i 5 Stelle, è stato un drago, il più grande politico della storia repubblicana. Simone: Roma potrebbe essere la capitale mondiale del turismo, invece viene dopo le grandi città europee. Non sarà perché i responsabili vengono nominati per nepotismo. Marco invece dice: basta, i partiti hanno rubato tutto, Roma ora attaccate sempre la Raggi per non farla governare, le Olimpiadi non si fanno, lo capite o no? E va bene, però c'è anche questo messaggio, Ivan, al quale potresti rispondere tu, che dice questo ascoltatore: fatemi capire, l'interrogatorio deve ancora finire e voi avete già tutte queste informazioni, ma siate seri per favore. Allora, vuoi spiegare da cronista, da uno anche che si occupa di inchieste, Ivan, come avviene? Come avviene? Beh, in realtà la questione della polizza era già nota ai magistrati, cioè non è un qualcosa che è emerso nel corso dell'interrogatorio, perché sarebbe effettivamente gravissimo se escono informazioni con un interrogatorio in corso. In realtà era una questione già ampiamente nota ai magistrati, perché avevano fatto degli accertamenti patrimoniali sui conti correnti di Salvatore Romeo. Quindi era emerso che erano state fatte queste polizze e allora i magistrati ovviamente nel corso dell'interrogatorio hanno posto domande, ma le risposte chiaramente non si sanno, quindi insomma sono informazioni acquisite in una fase precedente all'interrogatorio. Quindi erano cose già in parte note, che soprattutto poi hanno pubblicato il Fatto Quotidiano e l'Espresso, no? Esattamente. L'informazione era stata già acquisita in precedenza. Ivan, quindi prosegue ancora questo interrogatorio oggi e capiremo ancora nelle prossime ore, domani, insomma, se ci saranno altri elementi nella ricostruzione, no? Insomma, di come potrebbero essere andate le cose. Intanto ci fermiamo qui, grazie Ivan Cimarrusti. Vi ringrazio. Ciao Ivan, buon lavoro. Direi che ci prendiamo questa piccola pausa mentre voi continuate con i vostri messaggi, 349-238-6666, e poi la pagina Facebook di Effetto Notte. Roberta scrive: Fabio, si può stipulare una polizza per sé e designare una qualunque persona come beneficiaria in caso di morte? Si può anche designare un amico, che c'entra la polizza con De Vito? E se la Raggi ritiene Romeo una persona di cui fidarsi, perché non può promuoverlo? Ma poi di che parliamo? 30.000 euro per il caso morte sono una miseria, ma è possibile che voi giornalisti siete così ridicoli? I tappetini di chi vi paga, Fabio? Semplicemente abbiamo detto qual è la notizia. Evidentemente i magistrati, se hanno chiesto conto di questa cosa, trovano, diciamo, un po' curioso che non era un amico qualsiasi di Virginia Raggi che ha fatto questa polizza a suo favore, e che in più quello che l'ha fatta poco dopo è stato promosso con uno stipendio triplicato. Ecco, mettono insieme queste cose e si chiedono: ci sarà un nesso oppure no? Magari non c'è, però il dubbio pare lecito. 349-238-6666, dicevo, per continuare con le vostre interazioni, oppure pagina Facebook ad Effetto Notte. Ci sentiamo a momenti. 30 secondi della vostra attenzione, per favore, perché dal 1 febbraio Cuore Denari inaugura La Salute Vien Parlando. Sottotitolo: I mesi della prevenzione. Un viaggio con gli specialisti di Humanitas lungo tutto il corpo umano per imparare a investire in salute. E per ottenere rendimenti sicuri. Ascoltateci ogni giorno, allora, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12. Su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti con me, Roberta Giordano, e se state seguendo Effetto Note lo sapete come sempre che siete al posto giusto, nel momento giusto, fino alle 22 per essere aggiornati su tutte le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. Avere a fine giornata un quadro piuttosto esauriente di quello che è successo, così un giorno non potrete dire io non lo sapevo. Se avete seguito Effetto Note lo sapevate, sì. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp o SMS. Poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Note, dove continuo a vedere messaggi che riguardano la vicenda dell'interrogatorio e delle prime rivelazioni che riguardano Virginia Raggi. E poi questo invece su Renzi. Erminio scrive: Renzi sbaglia, non è anarchia, perché avete sentito la dichiarazione di stasera in cui ha detto va bene se all'interno del PD tensioni, la minoranza vogliono il congresso, vogliono le primarie, ci saranno, però poi devono rispettare i risultati, e allora se no è anarchia, dice. E Erminio scrive: Renzi si sbaglia, non è anarchia, chi vince le primarie non deve comandare umiliando e trattando in modo sprezzante la minoranza, non voterò mai più l'idea di un uomo solo al comando. Ora tra poco cambieremo tema, andremo sulla questione dei conti pubblici italiani e di questo negoziato con l'Unione Europea. Adesso però vi ricordo i fatti principali della giornata. Conti pubblici: il ministro Padoan respinge l'idea di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea nella lettera a Bruxelles spiega che il deficit scenderà al 2,1% nel 2017. Primo interrogatorio per Virginia Raggi, ne abbiamo appena parlato, emergono nuove rivelazioni nei rapporti con l'ex capo della segreteria Romeo, il quale avrebbe stipulato una polizza a favore della sindaca. Migranti, incontro a Roma tra Gentiloni e il primo ministro libico per firmare un memorandum tra Italia e Libia sui flussi migratori, domani vertice europeo a Malta. E poi per quanto riguarda la legge elettorale ci vorranno tempi più lunghi, l'esame si farà dopo le motivazioni della consulta. Renzi sulle tensioni nel PD dice vanno bene primarie e congresso, ma chi perde rispetta il risultato. Terremoto, il governo vara il decreto con nuove risorse diverse, centinaia di milioni, non aspetteremo, dice il governo, il via libera dell'Unione Europea. Stati Uniti, telefonate tese di Trump con i leader di Messico e Australia, solo immigrati che ci amano vogliamo, dice, e poi basta i divieti per le chiese. Alta il piano per sparare i lupi, le regioni ottengono un rinvio, verrà riesaminato il 23 febbraio. Abbiamo risorse nella legge di bilancio, ne stiamo mettendo in campo ulteriori con questo decreto. Abbiamo già parlato della necessità di ulteriori risorse, nella lettera di Padoan si parla di almeno 1 miliardo. Intanto però non è che possiamo aspettare chissà quali superiori determinazioni. Noi decidiamo, ci prendiamo le nostre responsabilità, cerchiamo di rispondere nel modo migliore possibile alla situazione che si è creata. Avete sentito Gentiloni, Presidente del Consiglio, che a proposito appunto di questo negoziato sui conti pubblici tra Italia e Unione Europea dice no, noi rispettiamo le regole, rispondiamo, però insomma non è che siamo lì ad aspettare, quindi rialza diciamo un po' la testa le indicazioni di come cosa possiamo fare, un passo a destra, un passo a sinistra. Ieri sapete che rispettando la scadenza del 1 febbraio l'Italia, imposta questa scadenza dalla Commissione Europea, l'Italia ha inviato a Bruxelles la lettera in cui rispondeva ai rilievi e alla richiesta di correzione sui conti pubblici. Quello che emerge è che l'Italia ha risposto all'Unione Europea che il rapporto deficit-PIL italiano scenderà al 2,1% quest'anno a seguito degli aggiustamenti richiesti appunto dall'Unione Europea. Un aggiustamento indispensabile, ha detto il ministro dell'Economia Padoan nel Question Time oggi al Senato, perché altrimenti, dice, la procedura di infrazione sarebbe allarmante, avrebbe costi più alti. Ne è vero, Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore? Buonasera. Ciao, buonasera. Sì, è così. Sai, in realtà ieri il nostro governo, il ministro Padoan, ha mandato questa lettera a Bruxelles, insomma, spiegando insomma la posizione italiana su queste obiezioni che arrivavano appunto dalla Commissione Europea e che ci, diciamo, accusavano di sforare di 0,2% il nostro rapporto deficit-PIL. Mm. Significa, diciamo, grosso modo 3,4 miliardi di euro. L'Unione Europea ci chiedeva e ci chiede una correzione su questo andamento. Che cosa è successo? Che la lettera inviata ieri, oggi ricevuta a Bruxelles, Bruxelles, letta con calma, è stata considerata, diciamo, un po' birichina, nel senso che non conteneva quegli impegni precisi, puntuali, e dettagliati, puntuali su come intervenire per riportare i conti in ordine, così come si aspettava Bruxelles. Quindi, diciamo, da Bruxelles, dall'Europa sono, insomma, trappelate un po' queste reazioni non eccessivamente entusiaste per la lettera italiana, e nel pomeriggio il ministro Padoan, che è andato in Senato, dove rispondeva, insomma, ad alcune interrogazioni sullo stato dei nostri conti pubblici, ha chiarito un pochino lo scenario. Lo scenario quindi è quello invece del governo, che si prepara a fare qualche cosa. Assolutamente dovrà fare un decreto che servirà a trovare questi 3,4 miliardi che servono per fare la correzione. Quali saranno le misure? Sono quelle, diciamo, grosso modo anticipate ieri, quindi ci sarà, diciamo, un intervento che va a incidere, insomma, nel campo dell'evasione, della lotta all'evasione, in particolare sull'IVA. Probabilmente ci sarà un piccolo intervento con l'aumento delle accise sui tabacchi e sui carburanti, e poi si annunciano tagli di spesa per 900 milioni. La novità di oggi è che tutte queste cose non avverranno come si era invece inteso ieri, diciamo, con calma dopo il DEF che viene presentato ad aprile, ma verranno fatte prima. Quindi, diciamo, il governo deve intervenire subito, perché lo ha ribadito oggi Padoan: rischiare una procedura di infrazione, una procedura per deficit eccessivo in questo momento è un rischio che il nostro paese non si può permettere. Sappiamo che una procedura di quel tipo avrebbe l'effetto, insomma, di mettere un pochino a rischio e di allarmare un pochino gli investitori, gli operatori sui tassi del nostro debito pubblico, e quindi, diciamo, meglio intervenire subito. Senti, Chico, sentiamo un passaggio del ministro Padoan su questo. L'ipotesi di possibile procedura di inflazione è estremamente allarmante. Un aggiustamento della dinamica del saldo di finanza pubblica strutturale è quindi indispensabile per evitare l'apertura di tale procedura. Questa procedura comporterebbe una riduzione di sovranità sulle scelte di politica economica e soprattutto comporterebbe costi ben superiori alla finanza pubblica del Paese, e quindi sottrazione di risorse per il pubblico, per la crescita e per l'occupazione, a seguito del probabile aumento dei tassi di interesse che risentono fin qui soprattutto della accresciuta instabilità politica. Adesso invece il presidente di Confindustria, Boccia. Una risposta che è in linea, diciamo, su quella che era la posizione italiana, che riconferma però un elemento di attenzione. Una parentesi da chiudere quanto prima per la questione legge di bilancio attuale, ma da riaprire immediatamente per una politica economica per la crescita in chiave europea ed italiana. La nostra premura è che il Paese non si concentri solo su legge elettorale e su elezioni, ma si concentri anche su un piano economico di medio termine per la competitività delle imprese italiane, ma anche per una proposta europea. Quindi facciamo tattica, ma anche strategia e visione, altrimenti perdiamo di vista le priorità del Paese. Senti, Chico, per chiudere, tra l'altro, dicevamo che poi il governo oggi ha varato questo decreto con nuove risorse, no, per l'emergenza terremoto. Si tratta di diverse centinaia di milioni. Ha detto il governo: non intendiamo aspettare il via libera dell'Unione Europea. Quindi, da una parte, ha dato la sua risposta in quella lettera dicendo: non vi preoccupate che il deficit lo facciamo rientrare, le misure arriveranno ad aprile, senza entrare molto nel dettaglio. Intanto però il governo ha detto: variamo questi soldi, perché c'era, no, anche questa questione di tenere dentro o fuori le spese per l'emergenza terremoto. Certo, guarda, ovviamente, insomma, la questione è molto molto complessa. A me, devo dire, sembra di aver capito che la correzione che ci chiede l'Europa, quindi questo 0,2%, riguarda, diciamo, quella parte quel particolare deficit che si chiama deficit strutturale, cioè diciamo il deficit che si realizzerebbe se le condizioni dell'economia e di tutto il resto fossero assolutamente ordinarie, cioè se non ci fosse la crisi economica, se non ci fossero i terremoti, se non ci fossero le alluvioni, eccetera. Questo a dire che quindi, a mio avviso, magari sbaglio, però io ritengo sia così, quel miliardo in più che verrà messo per il terremoto è giusto che venga messo, ma sarà escluso da questo calcolo, perché il calcolo di questo 0,2, la correzione dei conti, non riguarda il deficit strutturale, dal quale le spese, diciamo, per le emergenze le spese per il terremoto ovviamente rientrano in quella categoria, sono escluse. Quindi secondo me è giusto, perché che il governo, diciamo, sia andato avanti nella determinazione di finanziare e rapidamente e in modo, diciamo, consistente situazioni che non possono aspettare tempo, che non possono aspettare, esattamente. Questo però non evita che la correzione dello 0,2 debba essere fatta, perché la correzione dello 0,2 riguarda, diciamo, altre poste, altre partite. L'Italia, ricordiamolo, ha utilizzato insomma ampiamente la flessibilità che le regole europee consentono, ha usato flessibilità per gestire l'emergenza migranti, ha usato flessibilità perché si era impegnata a fare le riforme, ha usato flessibilità per favorire gli investimenti, quindi diciamo c'è stato un ampio utilizzo della flessibilità. Adesso l'Unione Europea ci dice che abbiamo esagerato di stringere, ma non ce lo dice in relazione al terremoto. Chiaro. Grazie Chicco Padula del Sole 24 Ore, vice direttore, buon lavoro. Grazie. Ciao Chicco. I vostri messaggi, dice questo ascoltatore, non voto 5 stars 5 stelle, però devo dire che l'accanimento contro di loro non ha precedenti, per altri fatti ben più gravi non avete detto quasi nulla, non so a cosa si riferisca, ma forse mi sbaglio, sarò rimbambito, gli sms andrebbero firmati con nome e cognome e citati quando si leggono Francesco Barbieri di Verona. Ovviamente ve lo dico sempre, piuttosto mettete un nome d'arte, ma mettetelo il nome, li leggo sempre naturalmente. Quando li scrivete, scriveteli dunque. Ci risentiremo tra pochissimo dopo la viabilità, 349-238-6666, numero per WhatsApp e SMS, oppure c'è sempre lì per voi, giorno e notte, la pagina Facebook di Effetto Notte. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, stavo leggendo un messaggio sempre sulla vicenda Raggi, dice questo ascoltatore che non si firma, le polizze vita sono polizze di investimento, non c'entra il caso morte, la sindaca Raggi è beneficiaria, può anche domani, è passato un anno unico vincolo, riscattarle, avere i 30.000 euro assomiglia molto a una mazzetta, per il momento però non si dice, semplicemente esiste questa cosa e gli inquirenti stanno solo cercando di capire di cosa si tratti, se ci sia un legame particolare con altre faccende, con la promozione per esempio appunto dell'ex capo della segreteria Capitolina Romeo, oppure no, sono cose che vedrà man mano la magistratura. Intanto l'interrogatorio della sindaca Raggi, che sapete è indagata per abuso d'ufficio e falso, è ancora in corso da dopo pranzo, praticamente molte ore. Ma tra poco cambiamo argomento, ci trasferiamo in Europa, soprattutto col tema dell'immigrazione. Vi ricordo però intanto velocemente quali sono i fatti principali. Appunto l'interrogatorio della Raggi, oggi il primo interrogatorio dai PM, scoppia il caso della polizza fatta da Romeo per la sindaca, poi nominato capo della segreteria. Per quanto riguarda il negoziato Italia-Europa, si dice ancora l'Italia riduca il deficit, e Padoan oggi ha risposto dicendo cerchiamo di senz'altro di ridurre il deficit, le misure ci saranno entro aprile però, e cerchiamo di evitare l'inflazione che è un'ipotesi allarmante e riduce la nostra sovranità. Legge elettorale andrà in commissione per essere esaminata solo dopo le motivazioni della Consulta, quindi si allungano un po' i tempi, mentre Bersani pensa a un Ulivo 4.0 e Renzi che dice d'accordo primarie e congresso, però poi si rispettino i risultati. Il presidente del Consiglio Europeo Tusk dice c'è questo accordo tra Libia e Italia e quindi cercheremo di bloccare il passaggio dalla Libia dei migranti. Tra pochissimo ne parleremo. Il governo sul terremoto vara il decreto con nuove risorse, diverse centinaia di milioni, come abbiamo sentito prima. Dice il governo: non aspetteremo il via libera dell'Unione Europea. E poi la notizia dell'alta al piano per sparare i lupi, le regioni ottengono il rinvio, verrà riesaminato il 23 febbraio, esultano gli ambientalisti. Europa 24 notte. Invece diciamo esultano ed è esaltato il vertice di oggi, l'incontro di oggi in realtà a Roma tra il Presidente del Consiglio Gentiloni e il Primo Ministro libico Sarraj, perché hanno firmato un accordo, quindi diciamo confermando i buoni rapporti tra Italia e Libia, un accordo per la gestione dei flussi migratori e il controllo dell'immigrazione clandestina. Domani c'è questo vertice europeo a Malta che di nuovo torna come tema centrale sull'immigrazione, ma su questo ci dà ulteriori notizie il nostro Sergio Nava, che è qui di fronte a me. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Beh, diciamo che chiaramente domani mattina in particolare il tema immigrazione, non immigrazione in generale, ma l'immigrazione sulla rotta del Mediterraneo centrale, che per il 90% riguarda Libia, i flussi, quindi. Esatto, i flussi dalla Libia verso l'Italia, sostanzialmente qualcosa va a Malta, però insomma sostanzialmente arriva quasi tutto qui in termini di profughi, rifugiati o immigranti anche clandestini. Questo sarà il tema al centro della mattinata di domani dei 28, perché ci sarà anche la Gran Bretagna e poi se ne andrà il pomeriggio. Il contesto è questo, cioè abbiamo, o meglio l'Europa ha tamponato l'emergenza sulla rotta balcanica, che 2 anni fa ha causato una profonda crisi, però resta aperto, e ci sono 140-150 mila arrivi l'anno, resta aperto il fronte del Mediterraneo centrale. Ora, quello che è successo è che c'è stata un'intensa attività, diciamo, diplomatica, il premier libico, almeno quello ufficialmente riconosciuto, al-Sarraj, prima a Bruxelles con Tusk e comunque i vertici delle istituzioni europee, poi a sorpresa stasera in Italia con Gentiloni, ha firmato un accordo con Gentiloni che prevede sia una collaborazione in termini di controllo delle frontiere, ammodernamento, formazione della Guardia Costiera Libica e anche di aiuto dell'Italia alle istituzioni libiche al-Sarraj rappresenta, anche in termini economici a quanto pare, anche perché lo stesso al-Sarraj a Bruxelles ha chiesto soldi, lo ha detto in modo esplicito, servono soldi. E come dicevi tu, le istituzioni europee, che sono quasi tutte presenti già da stasera a Malta, si sono congratulate. Ora stiamo a vedere, perché chiaramente al-Sarraj, lo abbiamo detto, rappresenta una parte, insomma, delle miriadi. La frammentata situazione, esatto, libica. Quindi no? quanto firmare accordi con al-Sarraj può essere poi effettivamente utile è tutto purtroppo a vedere. Magari possiamo anche sentire quello che ha detto Tusk, il presidente dell'Unione Europea Tusk, proprio. Our main goal for the Malta summit is to stem the flow of irregular migration from, esatto, Libya. Lo sentite nella video di presentazione del vertice di domani, ha detto: il nostro obiettivo è quello proprio di ridurre i flussi migratori irregolari dalla Libia. Non ci sarà solo quello, è bene precisarlo, nel vertice di domani ci sarà nel pomeriggio una parte a 27 senza la Gran Bretagna, in cui si parlerà del vertice di Roma, perché il 25 marzo a Roma si celebreranno i 60 anni dei trattati. E soprattutto l'idea è quella di rilanciare un'Europa che è in profonda crisi anche nelle opinioni pubbliche, quindi con un progetto concreto. Si farà anche il punto, Roma arriva dopo Bratislava, arriva dopo Malta, 3 vertici nei quali i leader cercano di dire ai loro cittadini: abbiamo capito i problemi e stiamo lavorando per risolverli. E quindi l'idea è quella di dire: abbiamo fatto questo e questo e questo per risolvere i problemi, tra cui immigrazione, ma non solo, anche la crisi economica. E da adesso ripartiamo. Lo faranno? Si vedrà. Insomma, e l'ultima cosa, perché poi l'Europa non è da sola in questo complicato mondo, domani a pranzo ci sarà un convitato di pietra, si chiama Donald Trump, che ha cambiato di 180 gradi quasi la politica americana verso di noi, in un mondo già di per sé complicato. Pensiamo alla Russia di Putin, pensiamo alla Cina, alle politiche commerciali, pensiamo anche al rapporto alla Turchia, alla minaccia terrorista, insomma, ma soprattutto il voltafaccia dell'America inquieta e preoccupa. E su questo il presidente europeo Tusk, nella lettera di invito, è stato anche abbastanza stranamente molto molto diretto nel includere di fatto gli Stati Uniti tra le incertezze, se non addirittura nelle minacce per la nostra stabilità a questo punto. Quindi ci sarà anche questo tema nel pranzo di domani. Grazie Sergio Nava. Ciao, ciao. Sergio. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. Radio 24 Day. E adesso saluto Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Caro Mauro, buonasera. Buonasera, buonasera Roberto. Con te parliamo di Telefisco, questo convegno annuale del Sole 24 Ore, 26esima edizione. Siamo arrivati con tutte le novità tributarie del 2017, che è stato un anno, cioè, diciamo, di modifiche ce ne sono parecchio, no? In campo fiscale. È un anno molto ricco, è un anno molto ricco. Capisco che, certo, rispetto a fenomeni come le migrazioni, insomma, o il cambiamento di politiche, magari potrà suonare un po' un accostamento così coraggioso, però è diciamo che anche questo, i commercialisti, cioè, guarda, hanno certo il loro da fare, e anche le imprese. È un anno molto ricco perché sono arrivati sulla fine dell'anno scorso diverse novità, e quindi quest'anno abbiamo in la Telefisco avuto l'occasione di esaminarle, di spiegarle, di confrontarci anche con le entrate. E poi è arrivata una buona notizia, cioè arriverà, perdona, lo dico un po' in modo criptico, mi rendo conto, questa norma per conciliare le normative sul bilancio con gli effetti fiscali che ne derivano. Poi è abbastanza criptica, sì, questa cosa. 24 ore. Questo perché vuoi tenere la suspense in modo che domani si acquisti il Sole 24 Ore per trovare appunto poi la spiegazione di quanto detto da Mauro Meazza. Dicevamo appunto, ci sono tante novità introdotte sia dalla legge di bilancio che dal decreto fiscale, no? Sì, sono novità che non sempre sono state bene accolte, perché come abbiamo raccontato a Radio 24, sul Sole 24 Ore, ci sono anche stati degli adempimenti nuovi introdotti proprio tra l'autunno e l'inizio dell'inverno dell'anno scorso, e questi adempimenti hanno così molto fatto arrabbiare i professionisti, perché si sono ritrovati con quelle che dovevano essere delle semplificazioni, appunto, che invece di fatto diventano dei nuovi obblighi. Diciamo, e Mauro, questo, che il sogno è quello appunto di semplificare anche, diciamo, per i comuni mortali. Ci dobbiamo lasciare, grazie Mauro Meazza, poi il resto domani sul Sole 24 Ore. Ciao Mauro, buon lavoro anche a te. Grazie, buonanotte. Ciao Mauro, noi ci aggiorniamo brevemente alle 22.